известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. There is a viable potential Palestinian state. La voce di Barack Obama nel briefing che ha seguito l'incontro con Abu Mazen, in cui sono usciti i primi commenti. I primi commenti da diverse parti sembrano piuttosto incoraggianti. È proprio la parola incoraggiati quella che è stata usata dal negoziatore palestinese, che si chiama Saeb Erekat, che dice: siamo incoraggiati all'impegno dimostrato da Obama e dalla sua amministrazione per la pace in Medio Oriente, lo riporta il sito web di Arez. L'istituzione di uno Stato palestinese è vitale, che viva a fianco in pace e in sicurezza con Israele, e una giusta soluzione al problema dei rifugiati in accordo alla risoluzione 194. Tutto ciò creerà un più sicuro e stabile Medio Oriente, ha detto ancora il portavoce di Abu Mazen. E Barack Obama a sua volta, nelle sue comunicazioni pubbliche, ha detto che Israele deve mettere fine alle attività di costruzione negli insediamenti ebraici in Cisgiordania e nel quadro di un accordo a favore della pace in Medio Oriente. Obama ha detto che i palestinesi a loro volta devono rispettare gli obblighi di garantire la sicurezza e di bloccare il sentimento anti-israeliano nelle scuole e nelle moschee. Insomma, devono dare senso e seguito ai buoni propositi. Obama, dopo l'incontro con Abu Mazen, si è mostrato ottimista, ha dichiarato che comunque non vuole fissare un calendario artificiale, così tanto per dare dei numeri per la creazione di uno Stato palestinese. Ha sottolineato che però non occorre perdere naturalmente tempo. La questione della espansione degli insediamenti in Cisgiordania resta quindi, mi sembra, il principale nodo da sciogliere, la strada dove si interrompono, no, i possibili parallelismi tra quanto detto con Abu Mazen e quanto detto con Netanyahu. Abbiamo in linea, come spesso accade, Maria Grazia Enardu quando si parla di Israele. Lei è una ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno, ha seguito insieme a noi negli ultimi giorni l'incontro Obama-Netanyahu. Tra l'altro è slittato di qualche giorno l'incontro con Mubarak per un problema familiare, un lutto familiare di Mubarak, ma avrà comunque luogo. E poi comunque sullo sfondo c'è questo 4 giugno, quando Obama arriverà al Cairo e parlerà all'Università del Cairo con, sembra, una nuova progettualità da presentare ai paesi islamici. Ma sentiamo da Maria Grazia un giudizio su questo incontro con Abu Mazen di Barack Obama, e sentiamo soprattutto se il parallelismo con quanto successo con Netanyahu in qualche modo può essere attivato, può funzionare, insomma, se si parla la stessa lingua o no. Buon pomeriggio, Maria Grazia. Buon pomeriggio a voi. Che sensazioni hai? Dimmi. E credo che sia stato un incontro molto tranquillo, senza le tensioni assai forti sotterranee dell'incontro con Netanyahu. E la richiesta più importante che Obama ha fatto ad Abu Mazen è stata quella di contribuire a ridurre il linguaggio di odio contro Israele nelle scuole, nelle e così via. Per il resto nulla di più, anche perché appunto la richiesta americana di congelare davvero gli insediamenti è anche la primissima richiesta che fa la parte palestinese. Il problema di questo incontro è che il presidente americano ha incontrato palestinese già scaduto, che certo, si è certo autoprorogato per un anno, certo, e quindi quando Obama ha fretta, e ha ragione ad aver fretta, e mette fretta agli israeliani, in realtà da parte palestinese c'è un collo di bottiglia: le elezioni presidenziali e parlamentari del gennaio 2010. semmai, e io su questo però non ho trovato traccia, mi chiedo se abbiano parlato dell'argomento sotterraneo, cioè se si svolgerà in Palestina, West Bank e Gaza, una campagna elettorale che non si limiti a premiare Hamas con restrizioni che semplicemente consegnano l'elettorato ad Hamas, ma riesca anche a incoraggiare Fatah e a dare a Fatah la possibilità di contrastare politicamente Hamas. Seconda domanda per te, Maria Grazia, seconda e ultima domanda. Non c'è da parte di Israele un palpabile fastidio dal punto di vista della nascente relazione tra il governo israeliano e Obama, un fastidio legato al fatto che sembra percepibile che le condizioni, le richieste, l'operatività rivolta a Israele, quello che Israele deve fare affinché si proceda, sembra, come dire, più sensibile, più tangibile, anche più impegnativo. In un certo senso è come se venisse, no, un po' chiamato alla cattedra a render conto più di quanto ad esempio ieri nell'incontro con Abu Mazen Obama abbia fatto nei confronti dei palestinesi. È una delle fonti di scontentezza del momento, pensi, questa? Assai forte, anche perché Obama e il segretario di Stato Clinton hanno agito quasi come in una doppietta di pugilato, hanno dato un doppio colpo nel giro di poco. Certo. D'altra parte, in questo momento è Israele la parte forte e un suo gesto è immediatamente percepito dai palestinesi, mentre i palestinesi, per questa loro pochezza politica e anche, ripeto, per il ruolo assai di Abu Mazen, non possono che essere recettori di iniziative altrui. Grazie a Maria Grazia Enardo, torneremo a sentirla la settimana prossima. Come vi dicevo, è una settimana sostanziale nel percorso di dialogo da parte dell'amministrazione Obama nei confronti del Medio Oriente e nello specifico anche di Israele. Credo fortemente nella soluzione dei due stati, ha detto Barack Obama al termine dell'incontro con Abu Mazen, facendo pressioni su Israele appunto sul tema degli insediamenti e ripercorrendo, come diceva Enardo poco fa, proprio una presa di posizione analoga espressa recentemente dal segretario di Stato Hillary Clinton. Come vi dicevo, l'incontro con Mubarak in programma per sabato, appena prima del appuntamento del 4 giugno, è stato posposto, è saltato a causa di un grave lutto familiare che ha colpito il leader egiziano, ma insomma il collo di bottiglia, il momento chiave che tutti attendiamo è appunto giovedì prossimo. This far. Insomma, già si percepiscono sapori da weekend di quelli memorabili in questa Roma che si va spopolando rapidamente. Già c'è pure il ponte di mezzo del 2. Ponte Lungo e AFA ci metteranno del loro. Noi intanto guardiamo appunto a questa prossima settimana, che è piuttosto densa dal punto di vista degli appuntamenti importanti da seguire, a segnalare. Vi dicevo, il 4 di giugno, giovedì, sicuramente dedicheremo un'attenzione particolare a quello che la Casa Bianca ha voluto, no, in un certo senso convocare all'attenzione del mondo come un momento di snodo, di svolta. Poi vedremo se le proposte espresse nella fattispecie dal presidente americano saranno all'altezza di tutto ciò. Ma poi anche il giorno prima, Emiliano, dobbiamo rendere conto di un anniversario assolutamente globale. Le coincidenze sono del tutto curiose, e naturalmente non c'è nessuna legge che sta dietro questa coincidenza. Cioè, il 4 giugno sono anche 20 anni dal massacro di Tiananmen, e noi lo ricorderemo il giorno prima, il 3 giugno. Stiamo già preparando una puntata proprio speciale dedicata a questa, e dovrebbero esserci, insomma, salvo intoppi della diretta dell'ultimo momento, Federico Rampini, corrispondente di Oggi del 2009 da Pechino, certo, di Repubblica, e Fernando Mezzetti, che invece possiamo definire il corrispondente di ieri, perché era il solo italiano assieme a Sandro Viola di Repubblica all'epoca, nell'89, presente in piazza, quindi che ci potrà raccontare i suoi ricordi di questo controverso anniversario che continua ancora a dividere la Cina, che cerca in realtà, per quanto riguarda la parte governativa, di dimenticare questi fatti. Di far finta un po' di niente, come ci hanno raccontato tanti ospiti in questi giorni. Altre notizie però sono già in circolo proprio in questi minuti, e ora ve ne rendiamo conto. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Insomma, l'abbiamo sancito con il buon senso popolare che c'è proprio, che un missile al giorno leva il medico di torno, e mi sembra che in Corea questo proverbio sia piaciuto molto, perché ne è stato lanciato un altro di un missile a breve raggio, però di tipo nuovo, che quindi ha, come dire, particolarmente inquietato i giornalisti dell'agenzia sudcoreana Yonhap, che ne danno notizia, hanno dato notizia poco fa. Quello che è stato lanciato dal Nord Corea appare qualcosa di diverso da tutto ciò che abbiamo visto in precedenza, sostiene un ufficiale, un militare sudcoreano. È un nuovo tipo di missile terra-aria, con un raggio di circa 160 chilometri, quindi proseguono imperterriti gli esperimenti coreani. Il mondo si è già inquietato, alcuni avvisi, devo dire, non mi sembra particolarmente efficaci, sono stati esposti. Poi si è stati un po' a vedere come la Nord Corea voleva reagire di conseguenza. Per adesso mi sembra che il braccio di ferro prosegua. E chissà se su questo fronte americani e coreani alzeranno ulteriormente la guardia, perché ieri hanno abbassato il livello di allerta. Abbassandolo significa che il pericolo è più incombente, sono passati da livello 3 a livello 2, quindi chissà a questo punto come avranno reagito anche emotivamente le truppe sia coreane, sudcoreane che americane, a questo nuovo rilancio, questo tavolo dell'azzardo, possiamo definirlo così, della Corea del Nord. Io resto nell'area asiatica, naturalmente con la Cina, rimango collegato a questo anniversario del 4 giugno 89 di Piazza Tiananmen, perché stanno facendo molto parlare di sé in Cina, ma soprattutto a Hong Kong, che è un po' un'isola felice per certi versi, comunque più libera all'interno del continente cinese, le memorie dell'ex segretario del Partito Comunista dell'epoca, Zhao Ziyang, che nell'89 venne epurato in quanto colpevole di simpatie per gli studenti in Piazza Tiananmen. Il 14 marzo, quindi due mesi fa erano uscite le memorie in edizione inglese a Hong Kong e naturalmente sono andate esaurite in pochissimi giorni. Adesso la stessa casa editrice New Century Press, sempre di Hong Kong, rilancia con la versione in cinese delle memorie dell'ex segretario del Partito Comunista, che sicuramente andranno a ruba anche queste in pochissimo tempo. E dopo un lungo silenzio è intervenuto ufficialmente il Partito Comunista cinese, che ha affidato all'agenzia semi-ufficiale, così viene definita da Asia News, Hong Kong China News, questo è il nome dell'agenzia che ha sede proprio a Hong Kong, una sua risposta dicendo insomma che il giudizio dato su Zhao Ziyang è inoppugnabile e fondato su dati storici incontestabili. Quindi rimane il giudizio negativo di condanna di Ziyang e poi di tutta la protesta legata a piazza Tiananmen. Un altro posto dove le cose cambieranno presto, forse non cambieranno affatto, come ci raccontava poco fa Margherita Nardu per la Palestina, è l'Iran, dove si va ora al voto. Ormai siamo vicinissimi alla scadenza elettorale ed escono fuori notizie piuttosto particolari, piuttosto stravaganti da questo scenario elettorale. Prima di tutto gli iscritti, quanti hanno fatto richiesta di correre, di essere autorizzati a correre per la presidenza in Iran? Sono la bellezza di 475 però, persone che si sono, come dire, iscritti alla corsa, compreso 42 donne, cosa che va in controtendenza con il credo popolare nei confronti dell'Iran. Però alla fine il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione ha autorizzato solo 4 nomi alla corsa vera e propria ufficiale. Naturalmente Mahmoud Ahmadinejad è la testa di serie numero 1, per usare una terminologia sportiva, il campione uscente sportiva, 53 anni, favorito nella corsa, accusato poche ore fa da parecchi articoli, soprattutto la stampa britannica, di essere ricorso a un mezzuccio, a un truccaccio per cercare di guadagnare voti. Regala patate, pare che 400.000 tonnellate di patate in eccesso, mi sembrano un mare di patate, vengano distribuite in queste ore ai poveri in cambio. Messa così sembra un baratto, eh? Una patata esattamente, per un voto. Esattamente il titolo di Times, che dice: Mahmoud Ahmadinejad and South Potatoes to Poor to buy presidential votes, per comprare voti presidenziali da regala patate ai poveri. Bisogna vedere se basterà per guadagnare il 50%, grazie al quale verrebbe evitato un secondo pericoloso ballottaggio. Il suo avversario principale è il candidato moderato, si chiama Mir Hossein Mousavi, ha alle spalle naturalmente il sostegno della stampa occidentale per quello che può contare. Poi altri due candidati sono il clerico Karoubi e un sostenitore della linea dura, un ex comandante della Guardia Rivoluzionaria che si chiama Mohsen Rezai. Just the beer man's dog howling at the moon, knowing all alone, waiting for Marty to get home. Waiting for Marty to get home. Marty's in the bathroom. It's a goddamn thing. Go underdog's house. They can see the rider coming, waiting for Marty to get home. Oh, oh. Waiting for Marty to get home. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Scusate, ci eravamo distratti, stavamo leggendo una di quelle notizie incredibili che riguardano il grande e complicato mondo dei commuter, di quelli che vanno avanti e indietro per per l'America sugli aerei, girano, ne pigliano uno, due, tre, quattro al giorno. Un volo Delta è atterrato, il volo 680 della Delta è atterrato perché a bordo stavano tutti male, in quanto chissà cosa diavolo gli hanno dato da mangiare. Comunque avvelenamento da cibo collettivo su questo volo, evidentemente un internazionale, perché da che mi risulti sui nazionali ormai ti danno delle scatolette che è meglio non guardare neanche, ma sempre meglio che poi vedere addirittura un atterraggio d'emergenza a causa del cibo guasto, come nei film non so, della serie Airport, non so se ve li ricordate, di qualche anno fa. Ma adesso parliamo di aspetti più seri, diciamo così, dell'America del presente, perché in collegamento abbiamo Mario Platero, il corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Ciao Mario, buongiorno. Hai capito che succede su alcuni voli Delta che atterrano? Perché non dirmelo, perché poi ci sono quelli che non danno nulla. Ieri sono tornato dalla California su JetBlue, che è una di queste linee aeree super discounted, a sconti, no? Che certo. quei posti che costano poco. E allora lì tutto è a pagamento, le scatolette certo. di cui tu parlavi le devi pagare $5 o $7 più $3 per un drink. In effetti non sai mai cosa ti capita, però è tutto ormai caratterizzato da crisi, tagli, risparmi e far pagare. Senti Bob, a proposito di California, insomma, in California è andato in scena un Obama, come dire, un po' californizzato, un po' hollywoodianizzato. I discorsi che ha fatto sono stati un tantino sopra le righe, soprattutto se uno poi magari li mette a specchio, no? Con i racconti degli inviati, insomma, ha grande ottimismo, ha detto che neanche ancora abbiamo visto tutto ciò che si sente in grado di fare. Qual è secondo te la svolta, l'indirizzo, la strategia che sta seguendo in questi giorni sul fronte interno il Presidente? Ma sai, il Presidente è lanciatissimo in questi giorni sul fronte interno, perché si è ritrovato con una nomina da fare per la Corte Suprema, quindi una nomina molto importante che improvvisamente di nuovo innalza il suo status, perché ecco che lo mette al centro di un dibattito e gli dà questa straordinaria responsabilità di scegliere la persona giusta. Alla fine della prossima settimana comincerà in modo più serrato il dibattito sulla riforma sanitaria, lo avvierà lui stesso per quel che mi risulta, e dopodiché c'è l'impegno da parte del Congresso di Nancy Pelosi di discuterlo poi nel dettaglio prima del rest estivo, quindi entro la fine di luglio, di cercare di avere qualche cosa di pronto e da portare al voto. Ecco, se davvero questa agenda va avanti, con in parallelo, come lui ha detto, insomma, il fatto che il momento peggiore della crisi forse è davvero passato, lo aveva già detto prima, aveva parlato di barlumi di speranza, ecco che, sai, di fatto lui in meno di 6 mesi è riuscito a fare una serie di iniziative che davvero possono cambiare un po' il volto dell'America, ecco, quantomeno in modo superficiale. Direi questo gli dà una certa carica, l'annuncio che ha fatto l'altro giorno per la nomination di Sotomayor alla Corte Suprema gli ha dato una grossa risposta positiva. C'è stata una, devo dire, una grossa risposta emotiva anche da parte di pubblico, perché questa signora è così una donna di grande ispirazione, una donna molto intelligente, parla molto bene, con questa storia fantastica, quindi certo. A livello di reazione collettiva, emotiva, da parte dell'opinione pubblica, direi, a parte qualche repubblicano che ovviamente dice sempre no e trova sempre le beghe, alla fine è stata una settimana positiva. Ecco perché secondo me un po' questo senso di carica, di ottimismo deve essere lui stesso caricato per portare la palla in avanti, per continuare a farla rotolare finché riesce e fin dove può. Oh Mario, tra l'altro, a proposito di Sotomayor, insomma, veramente questa nomina è riuscita un'altra volta a elettrizzare il pubblico degli obamiani, ma anche comunque l'interesse dell'intero Occidente. Ma so che tu hai avuto un incontro ravvicinato con un personaggio che conta parecchio nella carriera, nella emersione, insomma, di Sonia Sotomayor sullo scenario giudiziario americano, ovvero George Pavia. Ci vuoi raccontare di che cosa si tratta? Sì, direi un altro personaggio straordinario, anche lui un anziano avvocato italiano con una storia personale se vuoi altrettanto affascinante, anche se completamente diversa da quella di Sotomayor. Lui nacque a Genova, padre avvocato, Enrico Pavia, scapparono dall'Italia negli anni 30, nel 38, quando ci furono le persecuzioni razziali, perché sono di origine, lui è il padre, era ovviamente di origine ebraica, scapparono in Gran Bretagna, poi lì ci fu un altro disastro perché ci fu il problema dell'Italia che, insomma, come lui stesso mi ha detto quando parlavamo, pugnalò alle spalle Francia e Gran Bretagna, e quindi improvvisamente in Inghilterra furono deportati tutti gli italiani venuti dall'Italia, inclusi l'isola di Man, dove si restarono per svariati mesi, fino anche un comandante inglese che aveva conosciuto il padre, che era l'avvocato del consolato britannico a Genova, lo riconobbe e lo liberò, e da lì partirono, arrivarono in America il giorno di Thanksgiving del 1940. Quindi ecco che questo personaggio un giorno deve assumere un avvocato, e chi gli si presenta in studio? Gli si presenta questa giovane signora, perché stiamo parlando del 1984, quindi ormai stiamo parlando di 20 anni fa, che era reduce da un'esperienza dei District Attorney con Morgenthau, quindi cause fatte da seguite da un procuratore così che va in tribunale tutto il tempo. C'è bisogno di un giovane avvocato così che mi seguisse proprio queste pratiche in tribunale, perché questo è uno studio che avrà una quarantina di avvocati, non è uno studio enorme per i livelli americani, ma segue molto le vicende italiane. Quindi il fatto bizzarro qual è? È che questa signora che viene dal District Attorney, da Morgenthau, assunta da questo studio italiano e da George Pavia, che simpatizza subito, mi disse: l'ho trovata subito intelligentissima, molto preparata, c'è poi con questa straordinaria storia, quindi questo sync, se vuoi, no? La storia già allora era una storia molto importante, interessante, e quindi chissà, forse lui stesso si è identificato. Le difficoltà della vita poi portano, anche se hanno radici e origini diverse, in qualche modo un po' di solidarietà. Insomma, l'ha assunta subito ed è stato subito molto contento. Ma la cosa davvero interessante è che questo giovane avvocato, che adesso diventerà, sono sicuro che sarà approvata senza problemi, uno dei justice della Corte Suprema, quindi il maggiore livello in cui si prendono decisioni per il lungo termine della coscienza del paese, cominciò a seguire in tribunale le cause per conto della Fiat, che era ancora presente in America allora, e aveva una serie di cause di guidatori, incidenti, qualcuno che aveva investito, una macchina che non funzionava. In America c'è molto questa prassi di portare il produttore d'auto in tribunale e poi farsi dare 10, 20, 30 mila dollari. Pavia mi raccontava, non erano tutte cause di aria fritta, dice, però bisognava farle perché si andava poi davanti ai giurati e se si perdevano in queste cause era un guaio. E quindi la Sotomayor ha cominciato con la Fiat, direi un fatto bizzarro, con la Fiat, con uno studio italiano, e poi ha fatto questa grossa operazione per conto di Fendi. Fendi era preoccupatissima dal problema della contraffazione, quindi chiese appunto allo studio Pavia se si poteva organizzare qualche cosa. L'idea venne alla Sotomayor, decise di fare un accordo con le dogane, conosceva qualcuno delle dogane qui a New Jersey, si misero d'accordo. Quando c'erano delle spedizioni un po' strane che arrivavano, lei si presentava con un poliziotto e con giubbotto antiproiettile in questi strani depositi che vediamo nei film della periferia di New York, sotto i ponti nel New Jersey, no, dove abbiamo visto girati film dei mafiosi, e sequestrava in massa queste cose. Quando hanno accumulato una montagna di materiale contraffatto, hanno deciso di farne una grande cosa pubblica, e lei voleva bruciare tutto a Central Park davanti a Tavern, i pompieri le hanno detto di no, e quindi si sono trovati a dover scegliere, e hanno scelto che cosa? 4 di questi enormi camion della spazzatura che vediamo circolare per New York, così pericolosi, aggressivi e brutti, e lì dentro hanno buttato tutte queste borsette, cinture, prodotti contraffatti, rifendi con televisioni, fotografi, insomma, grosso ritorno stampa. Quindi credo che quando Barack Obama parlava di questa esperienza pratica, concreta, con un approccio internazionale che caratterizza e riempie, se vuoi, la carriera di questo giudice, non si riferiva ad altro che a un'esperienza fatta con uno studio italiano, con questo nostro avvocato italiano che è qui, e con una serie di aziende italiane. Quindi trovo davvero molto interessante questo quotè della Sotomayor. Va bene, grazie, grazie molto a Mario Platera anche per questi racconti del tutto inediti appunto sulla personalità emergente di Sonia Sotomayor. Ci sentiremo la settimana prossima con Mario anche per seguire in modo ravvicinato, analizzare, sezionare un po' il discorso, il ruolo internazionale che la presidenza, il presidente Obama e i suoi più stretti collaboratori andranno a giocare in Medio Oriente, nella fattispecie, come vi ho detto più volte, il 4 giugno attorno a questo discorso alla Università del Cairo. Gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Beh, prima di news un po' di posta rapidamente, ma insomma una notazione, come dire, va fatta. Ne siete, SMS piccante. Ne siete voi gli artefici. E poi valla a pensare, arrivano quando non te l'aspetti, come dire. La cosa di Ahmadinejad, insomma, che a base di migliaia di tonnellate di patate pare si stia, insomma, guadagnando, comprando qualche voto tra i poveri dell'Iran, che si avvia alle urne, vi è piaciuta molto. Ad esempio, Stefano da Milano dice: in Iran si vota con le patate, da noi con le patatine. Replica un anonimo però assonante: tutto il mondo è paese, in fondo anche da noi le polemiche sulla lista di Berlusconi vertevano sulle patatine. Non erano patatine, erano veline, erano... Beh, più o meno farina però. E infine, più serio invece, Marco, che almeno ne fa una questione di raffronto tra politiche internazionali, ci ricorda che anche Lula in Brasile aveva, si dice che avesse comprato voti con un sussidio alle famiglie del nord. Insomma, patate non buttate, vedremo se sono patate guadagnate, non so se il proverbio può reggere. Abbiamo ancora qualche notizia per chiudere. Allora, io ne voglio dare una molto strana, ma secondo me anche molto importante e significativa, per le quali mi piacerebbe avere la consulenza di Alessandro Politi, il nostro analista strategico amico, che secondo me ne capisce. E poi, visto che la notizia viene dalla Siberia, chiamerei subito il nostro Giuliano Noci, che quei posti li frequenta molto bene. Però, avendo due minuti di trasmissione... No, posso semplicemente limitarmi alla fredda, anche perché siamo in Siberia, agenzia Alansa, che dice che nella città di Sukhi, appunto nella Siberia occidentale, al confine col Kazakistan, è stato inaugurato, mi guardi male, ma è una notizia grossissima. Non ti ho minimamente... un impianto per la distruzione delle armi chimiche più pericolose, compreso il più potente dei gas nervini, il VX, e a quanto pare a questa inaugurazione hanno partecipato anche rappresentanti di altre nazioni, non solo la Russia, perché c'erano anche uomini americani, inglesi, francesi e canadesi, e il ministro per l'industria e il commercio russo si è impegnato a dire che tutte le armi chimiche russe verranno distrutte entro la fine del 2012. Parliamo di un impianto gigantesco in grado di distruggere 1700 tonnellate di veleni chimici all'anno, e secondo appunto le attese neutralizzerà 1200 tonnellate di sostanze tossiche per la fine del 2009, presumo che arriveranno un po' da tutti gli angoli del mondo. Sono presi una bella topica, non so come dire. Tornerei un attimo per concludere ancora a questa figura sicuramente il personaggio della settimana, no? Giudice della Corte Suprema americana Sonia Sotomayor, che nel frattempo sta finendo il suo lavoro, no? di giudice tout court, insomma, senza ancora l'impegno nella principale corte d'America, e ieri è finita sulle pagine dei giornali americani per essere stata tutt'altro che tenera nel giudizio di una di quelle piccole storie che gli americani piacciono molto, perché diventano esemplari poi di grandi comportamenti o di comportamenti collettivi. Nella fattispecie Sotomayor ha condannato senza mezzi termini e con provvedimenti severi una ragazza si chiama Avery Doninger del Connecticut, rea di aver utilizzato il proprio blog per insultare pesantemente i direttori della scuola che frequenta, una liceale, questa Avery, dopo che costoro si erano opposti e avevano proibito una manifestazione musicale all'interno del suo liceo. Lei si era molto arrabbiata e sul suo blog gliene aveva dette quattro. Qui si entra quindi nel famoso territorio dei diritti di internet e della rete, ma ci è entrata pesantemente anche Sotomayor, che ha proibito tutto, ha chiuso il blog, gli ha rivolto una dura reprimenda, e quindi si avvicina alla Corte Suprema come paladina dei diritti civili, però mi sembra un personaggio tutt'altro che tenero. Sotomayor. Qualcos'altro volante? Ma 10 c'è secondi. Una storia dell'America che riguarda padre Alberto Cutie, che è un sacerdote cattolico molto popolare tra gli ispanici, soprannominato proprio per la sua fama padre Oprah. A quanto pare era stato fotografato abbracciato una ragazza in spiaggia, ha ammesso di essersi innamorato di questa ragazza, era stato sospeso dal vescovo di Miami. Alla fine lui cosa ha deciso? Di cambiare fede cattolica, e passa da quella cattolica appunto a quella episcopale, dove può sposarsi tranquillamente. Bene, questa mi sembra un'ottima ultima notizia della settimana di Jefferson 2, l'arte alla svolta. Io sono Stefano Pistolini, qui c'è Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Peter Bescapè a Milano. Jefferson 2 e tradi24.it è l'indirizzo mail, le pagine Facebook redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 radio 24, Express Yourself replica a mezzanotte, sul sito della radio il podcast. Noi torniamo lunedì come sempre alle 16, mi raccomando, visto che l'esodo, anche il traffico lo dice, no? Le notizie del traffico, l'esodo è il fatto del momento, guidate con prudenza, insomma, pigliatevela allegramente e in serenità. A presto.